boom, dentro in della stanza, in sul banco, la bottiglia alla danza, come rapti in vela noce, ci appuncia quel che avanza, più cerco come hutch, senza speranza, quella con le calecca, al faseva legionari, e il parla de parlu, e cui san del calendari, e il film nazionale, e il disco di mileage, per pagura di ricordi che sono tempo de specie, fun e profum. Le profum. Quei fin fermate beffe il falsegno della cruz. Quei vedem stravaca tutti, peste ma bassa bus. I te della barista han scritto in troppi storie. Caramelle tutto calcio e giù da tutto c'è il settore. E fum e profum. Dentro in della stanza, in sul banco, la bottiglia alla danza. Come la tende la noce, ci appuncia quel che avanza. Tu cerco come esci, senza speranza. Già come in giacchetta, quadri innanzi in tre del gabinet, Mario Musca al parco il nodo a 20 pagine di gazzetta, giornaggia moscio già, fiasco senza il food, radiolina col catarro che scarcaia e cerca io. Fum e profum, fum e profum. Unien la fa la guerra, scondi in una cantena, l'orzo huele nasso in Francia alla sposa una marochena. Se guarda un po' il suffit, se guarda un po' il piastrell, quan passa la barista, se guarda sempre quel. Come on, cheer!